Radio 24 Reportage. L'altro terremoto, Castel Sant'Angelo sul Nera, un anno dopo, di Dario Ricci, regia di Carmelo Lauricella. Castel Sant'Angelo sul Nera è un paese fantasma, il centro storico si è trasformato in una zona rossa, completamente transennato. L'unica parte agibile è questa piazza, è qui che tutti i cittadini nella notte si sono riversati nel panico più totale dopo la prima scossa. Adesso mi do il cuore a lasciare la sicurezza, bisogna andare via. Vado anch'io perché adesso, siccome sta facendo le scosse ogni 5 minuti una, abbiamo paura. È passato poco più di un anno da quel 26 ottobre. Verso le 19 una scossa di magnitudo 5.4 con epicentro a Castel Sant'Angelo sul Nera, un piccolo borgo di 280 abitanti in provincia di Macerata, fa tremare la terra in tutto il centro Italia, seguita poi da una ancora più intensa di magnitudo 5.9 alle ore 21.18 con epicentro nel comune di Ussita. La sequenza delle scosse è fondamentale per far sì che non si ripeta una strage come ad Amatrice 2 mesi prima. Allarmati dal primo sisma, gli abitanti di Castel Sant'Angelo scendono in piazza. All'arrivo della seconda scossa e dei crolli che provoca, sono in strada, terrorizzati sì, ma salvi. A un anno di distanza da quelle scosse, siamo andati a Castel Sant'Angelo sul Nera per fare il punto su danni, costruzione, lavori, ma soprattutto per capire come una piccola comunità può prima sopravvivere a una tragedia di questa portata e poi anzi provare a ridisegnare il proprio futuro. È il sindaco Mauro Falcucci a farci da guida per le vie del borgo, ora deserte e trasformate in un'unica zona rossa. Stiamo andando verso il centro storico, a sinistra qui c'è l'unico piazzale dove abbiamo preso quella sera 5.9 quando siamo usciti tutti e stavamo tutti qua. Questo sembrava le onde del mare, questo piazzale, si muoveva in continuazione. Adesso l'abbiamo destinato alle attività produttive, stanno completando gli interventi e speriamo che partano insieme alle casette quanto prima. Quelli sono i moduli dove tutto l'inverno abbiamo passato noi che stavano da quest'altra parte. Fino a giugno siamo stati dentro quei due moduli come uffici. E qui già si vede il panorama, purtroppo. Sì, panorama è catastroficamente colpito. Lei vede, lì c'era un bed and breakfast, ovviamente abbiamo fatto demolizioni controllate, ma il centro storico, lo vedete, più ci avviciniamo e più uno si rende conto della catastrofe. Ecco, facendo delle cifre in percentuale, quanti edifici sono stati danneggiati? I numeri ce li abbiamo ormai certi, il 93% di inagibilità con un 91% di crolli, come vedrete, quelle che vedete in piedi, si rende uno conto da subito, dice qui come facciamo, dove mettiamo le mani? Guarda, adesso basta vedere, ci avviciniamo al centro, andiamo verso destra, troverete tutto per terra e è fatica mettere le mani là. Lì ci sono chiese del 1200, 1300. Questa era tutta, eccolo qua come era Castel Sant'Angelo. Senta, ci sono state anche molte polemiche rispetto proprio al fatto lo smaltimento delle macerie. Da questo punto di vista credo che sia anche molto difficile, come sottolineava, intervenire non a casaccio, no? Per evitare ulteriori danni o anche involontari. Allora, ci sono due tipi di problemi. Se le macerie per legge sono state assimilate a rifiuti indifferenziati, come tali vanno trattati, anche perché soltanto chi è preposto alla rimozione, allo smaltimento può essere impiegato. Essendo in un centro dove qui sono molti edifici tutelati, c'è una prima separazione di materiale di interesse architettonico e storico che va separato. Poi se incontri anche del materiale cancerogeno tipo l'amianto, come qualche canale, ti devi fermare e devi far smaltire l'amianto. Devi avvertire il proprietario quando stai raccogliendo le macerie. Quindi la norma è complessa, tutela, sicuramente c'è una validità per chi ha avuto pochi crolli, ma come vedete voi qua, dove è catastroficamente colpito, qui c'erano delle case, a destra c'erano 3 di case, ecco, quindi poi andiamo lassù e si vede tutto il panorama di quello che credo che vedere è emblematico. Lei comprende bene, vede che per portare via c'è la separazione, poi vengono portate nella... qui ce n'erano 3 di case, non c'è più niente, qui ce n'era un angolo. Tutte le 3 case doppie, insomma, due sì, piani. Erano tutte ovviamente pericolanti sulla zona via pubblica, sono state demolite e adesso vengono portate via per quanto possibile tutti i materiali, ma ci sono quelli che danno sulla via pubblica, stiamo completando con grossa fatica. Abbiamo avuto anche l'ausilio dell'esercito che sta operando su un paio di frazioni che sicuramente ci aiuta a accorciare i tempi. Ma qui noi abbiamo stimato 100.000 tonnellate a spanne, ma sono tante le macerie qua. Ricostruire è il primo obiettivo, ma c'è anche una comunità da preservare, da tenere unita. I nuovi alloggi che sono in parte arrivati, in luoghi e spazi diversi ormai da quelli abituali. Gesti, simboli, mani che aiutano, sono importanti come i soldi e i mattoni. Nazareno Rocchetti, con le sue mani, quando era fisioterapista della Nazionale di Atletica Leggera, ha modellato i muscoli di campioni come Pietro Mennea e Sara Simeoni. Le sue mani ora disegneranno una scultura che verrà posta in paese come segno della volontà di resistere e rinascere. In pochi minuti un paradiso terrestre come questi luoghi, come la Valnerina, come Visso, come Ussite, diventi un inferno. Ma io credo questo che sia un prezzo che l'uomo deve pagare. Deve pagare non di me il perché o il per come, ma la natura ci ha dimostrato tante volte, ancora una volta, ci ha detto che la natura va rispettata, la natura va amata. L'uomo in questi ultimi anni si è creduto padrone del mondo, invece io credo che non è stato capace neanche di essere custode del mondo, perché questi fatti non vengono a caso. L'uomo è egoista, l'uomo ha provato a ricostruire a modo suo, forse per business, senza pensare appunto alla natura. E la natura, sì, è triste dirlo, ma ci ha punito, questa volta ci ha punito. Ma noi siamo marchigiani, siamo gente tosta, siamo gente praticamente che ci rimbocchiamo le maniche, crolliamo, ci inginocchiamo, ma ci rialziamo, perché questa è la nostra forza, perché dobbiamo assolutamente rispettare questi posti, praticamente cercare di ricostruirli, non so quando e come, ma la volontà c'è. Per sentirsi più uniti, più vicini, bastano a volte questi piccoli gesti, come quello di alcuni rugbisti veneti che sono oggi a Castel Sant'Angelo. Rappresentiamo gli Old Bridge Rugby Bassano, una squadra di vecchi giocatori, diciamo, che ci dilettiamo ancora in questo sport. I Quattro Gatti Vicenza, che è un'altra squadra old, e Rugby Bassano, comunque la squadra che milita al momento in Serie C. Ecco, abbiamo organizzato una cena settimana scorsa per raccogliere un minimo di fondi per aiutare questa gente qua. Non è tanto, però è una cosa veramente, scusami perché sono un po' rotto dalla commozione, da quando sono salito qua continuo a piangere, dico la verità. E per noi, per me personalmente, proprio sto prendendo un grande insegnamento da questa gente qua. Loro sono veramente dei guerrieri in tutti i sensi. Sempre dallo sport un altro piccolo aiuto. Il Festival della Cultura Sportiva di Macerata, Overtime, ha pubblicato un libro i cui proventi vanno proprio a Castel Sant'Angelo. Il presidente del comitato organizzatore, Michele Spagnuolo. E onestamente camminare per Castel Sant'Angelo, come anche per Visso, per Ussita, per tutta la zona letteralmente martoriata, fa male. Fa male per chi le conosce da sempre. E quello che mi auguro che ci sia una progettualità, soprattutto che non vadano a dimenticarsi, non ci si dimentichi di questa comunità, che non si cada nella retorica e soprattutto che si faccia il possibile per poter ripartire con le attività produttive, perché senza l'economia, senza la pastorizia, senza l'allevamento, senza il supporto anche a Camerino per l'università, ma anche qua a Macerata, sono questi i cuori pulsanti di questo territorio, il turismo. Se non si investe su questo sarà veramente molto difficile ripartire. Intanto sono arrivate le prime casette provvisorie, come illustra Falcucci. Queste sono le prime 11 casette che noi abbiamo consegnato una decina di giorni fa. Abbiamo una mesata di ritardo, me la prendiamo noi come colpa, perché le volevo che fossero state consegnate così, come quelle altre di altre realtà dove ci sono andati il Presidente del Consiglio dei Ministri o qualcun altro. Noi dignità da soli abbiamo fatto molto sobria, noi il Presidente della Regione, basta. Però anche io volevo i fiorellini, abbiamo dato i fiorellini, quindi quel mese di attesa l'hanno ben sopportato. Quanti chilometri sono dal paese? Un paio di chilometri e mezzo, è poco, quindi questa è una delle frazioni più alte, siamo a 1050 metri qua. E qui quante persone ci sono? Ci sono, mi sembra 21 o 22 sono sulle 11 casette. qui ecco, avete fatto magari due passi, avete visto, qui avete, sì, c'è anche Tia Bellino. E qui sotto faremo la struttura polivalente. Adesso prepariamo l'area e qui ci andrà una struttura di una sessantina di metri dove diventa un circoletto per loro, che la sera uno può andare qua, vedere la televisione, scherzi. Da un sindaco in trincea arrivano infine indicazioni chiare alla politica perché abbia coraggio di scegliere per aiutare davvero ricostruzione e rinascita. Le priorità della politica sono intanto di differenziare gli interventi su tutti i comuni, magari con la stessa tempestività con misure diverse. Questa è la prima. La seconda, di accelerare al massimo sia il termine della microzonazione per quanto possibile e quello dell'aspetto idrogeologico per quanto ci riguarda, per conoscere in maniera profonda e scientifica il territorio e da lì insieme decidere insieme ai cittadini, perché le delocalizzazioni non le può scegliere l'amministrazione comunale. Ci vuole un consenso, un concerto. Bisogna comunque accorciare i tempi almeno della conoscenza, perché della ricostruzione ce ne rendiamo tutti conto che non può essere a batter d'occhio. Però già il sapere che si può fare significa che ci sarà un futuro. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.